La tua mattina su CRM Happy Radio è slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Cominciato a lavorare o a studiare ha bisogno di grande energia per riprendere il ritmo giusto. Inoltre le temperature fra poco, come stiamo vedendo in questi giorni, anche se le giornate sono veramente squisite e continueranno ancora di più ad abbassarsi, e quindi abbiamo bisogno di un'alimentazione giusta per affrontare l'autunno-inverno, che sia consone comunque al nostro corpo e così via. Quindi ora vi diamo dei piccoli consigli che vi aiuteranno ad affrontare questo autunno-inverno 2011-2012. Continuiamo con la musica, salutiamo Eva e la piccola Giulia che sono in ascolto e rinnoviamo sempre gli auguri. Giusy Ferré con Il mare immenso. A volte io vorrei arrivare in cima ai tuoi segnali per intuire tutti i sensi unici. A volte o quasi sempre io mi perdo nella notte, decido poi di scivolarti addosso e cancellare tutto e niente mi appartiene. Ma c'è qualcosa dentro che mi morde l'anima, l'amore che distrugge come un cielo fulmine il nostro cuore. Yeah. ci portava verso il mare. Quel mare immenso. Adesso non mi pento più e rimango qui da sola. Dipingo la memoria alle pareti. Lo so che quasi sempre io dimenticavo il senso. Non respiravo venti più leggeri. È scivolato tutto e niente ti appartiene. Ma c'è qualcosa dentro che mi brucia l'anima. Allora, mi raccomando, non saltare mai la colazione, consumare alimenti ricchi di vitamina C come le arance, i mandarini, i pompelmi, gli agrumi, i kiwi, fare un'abbondante quindi colazione, fare una scorta di vitamina D, consumare spesso legumi e consumare anche frutta secca. Adesso consigli commerciali, poi riprenderemo con la musica. Su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato nel mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ma ci son cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio hai il volto delle cose che hai perduto.

Slalom. Flashback. Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. Lascerò per te.

Allora, amici in ascolto di CRM Happy Radio, questo è Slalom e abbiamo questa mattina, come anticipato nelle puntate precedenti, un nostro caro amico che al telefono e che praticamente ci parlerà un po' di alcune cose importanti. Ciao Michele! Ciao Francesco! Come stai? Michele Sarri! Io sto bene, grazie a te per l'amicizia! Michele Sarri, che innanzitutto faccio una brevissima presentazione in pillola. Michele Sarica io lo conosco da 20 anni, è stato fra le altre cose il mio primo direttore in una radio, è stato un po' quello che mi ha per alcuni aspetti fatto crescere all'interno delle radio private a Palermo. Adesso le cose sono un attimo cambiate, però c'è sempre l'entusiasmo, è lo stesso. Sono cambiate soprattutto gli anni di età, vero Michele? Ma guarda, io sono felice di sentire quello che dici, non per fatto di vanagloria, ma proprio perché mi porti indietro nel tempo di così tanti anni, che forse sono molto di più di 20, se non ricordo male. Sì, sì. Comunque sì, io posso dire questo, che ti ho conosciuto in calzoncini corti, hai trasmesso già... Subito comunque ho capito che c'era del talento, è dubbio. Allora sei ospite quindi... a pranzo qualche giorno di questi, dai. Dico, ti ritrovo adesso, ti ho lasciato a Radio Alba, ti ritrovo Radio qui Alba, per radio, quindi già per me è un grande, per me è un successo personale. Poi trovare un amico, che tra le altre cose dobbiamo dire a chi ci ascolta e ai tuoi fan soprattutto, che sei stato tu a riuscire a trovarmi. Perché... Ma sai, oggi dobbiamo essere sinceri, con Facebook, Twitter, esatto, e così via, è molto più semplice riuscire a trovare persone, mentre prima tu cosa facevi? Andavi dove che lui abitava e così via, allora se non lo trovavi lì, non abitava più lì, avevi perso realmente il contatto. Oggi tramite questi social network, che hanno delle sue negatività, ma questo è un altro discorso, mi hanno dato soprattutto l'opportunità di ritrovarti. E questa allora, è stata una cosa molto molto bella, guarda. Perfetto. Senti, una cosa ti volevo chiedere, sì. Innanzitutto perché sennò noi parliamo a raffica e abbiamo tante cose che dobbiamo dire, e soprattutto perché, ecco, sì, stavo sistemando con il tecnico la base sottofondo. Allora, parliamo innanzitutto di chi è Michele Sarrica, di questo ne mettiamo una parte e avremo modo, se tu ci darai l'opportunità e il piacere di averti ospite qui in radio, faremo proprio un qualcosa dedicato esplicitamente comunque alla tua nuova professione, a questa professione che ho letto e ho sentito in giro, la vivi in maniera molto profonda. È nato a Castelbuono, quindi siamo qui vicino, è un paese proprio straordinario, tu scrivi nel tuo sito, è abitato a Palermo, a Torino, una breve pausa anche negli States e da 20 anni abiti a Capaci. Sì, ti occupi di poesie. Bene. Parlami un po' di questa bella cosa che veramente ho avuto modo di leggere qualche tuo scritto e mi ha colpito in maniera particolare. Beh, essendo madonita, visto che hai parlato di Castelbuono e del Cefalù, che io chiaramente ho vissuto da giovanetto, Cefalù, il mare, il lungomare, le feste, San Salvatore, eccetera, eccetera, è chiaro che, sai, o volere volare, si caschi nella poesia, a parte che la poesia la ritengo che sia proprio fonte di vita, senza la poesia non ci fosse, sicuramente non saremmo qui a parlarne. Sì, e a parlarci. Tu scrivi anche che spesso le tue poesie sono fatte in lingua siciliana, il dialetto, quindi che stai rispolverando, è una cosa che ti è venuta da poco, ma comunque una cosa che sentivi dentro di te di trasmettere questa nostra madre lingua, come tu scrivi proprio all'interno del sito. Ma ti dirò, Francesco, il fatto è questo, che io ho riscoperto che noi abbiamo una grande lingua, una lingua, parlo di lingua e non dialetto perché ha tutti i crismi per essere tale, soltanto si chiama dialetto perché rispetto all'italiano, all'inglese, è una lingua che ha perso nella sua battaglia, mi spiego? Sì. Quindi anche l'italiano oggi sta perdendo rispetto alle grandi lingue, l'inglese, che so, il portoghese, insomma, spagnolo, per non dire il tedesco. Comunque il fatto è che io ho scoperto il siciliano non come un fatto romanzato o narrativo popolaresco soltanto, ma l'ho scoperto come lingua poetica, il che mi ha, diciamo, spronato a cimentarmi. Ho detto, caspita, abbiamo una lingua così bella, così nostra, così vera, così radicata in noi, e noi, io continuo un po' a ciondolarmi, non che io disprezzi assolutamente l'italiano, lo conosco poco, devo dire la verità, ma quando ho scoperto il siciliano, dico, me ne faccio un vanto, ma mi ci trovo benissimo. Spero tanto che ci sia, così come un po' le leggi anche regionali, ci permettono di portarla avanti anche nelle scuole, non come un fatto che i ragazzi debbano, perché c'è una confusione in tal senso. Qualcuno dice insegnare il siciliano significa fargli valere, non soltanto questo, significa dare ai nostri giovani studenti la possibilità di capire la nostra provenienza, dove veniamo noi, chi era Ciullo d'Alcamo, chi era Antonio Veneziano, Ignazio Buttitta, forse chissà Michele Sardica. Ma è importante questo. Noi non dobbiamo andare a fare dei ruggiti in siciliano, ci mancherebbe l'altro. Certo. Però dobbiamo capire chi siamo noi. E questo si capisce attraverso la lingua, attraverso le radici e la cultura, diciamo, siciliana. Perfetto. Senti, un'altra cosa, sto leggendo all'interno del tuo sito che tu ti occupi anche di teatro, come in qualità di attore, ti occupi anche di canzoni in qualità di paroliere. Questa esperienza? Diciamo che sarà una mia sventura, una mia avventura, non lo so. Ma il fatto sta che anche il teatro dialettale nostro... Quindi è sempre collegato alla lingua di casa nostra? No, no, no, no, io scrivo anche il teatro soprattutto in lingua, devo dire la verità. Uh-huh. Ma qualcosina l'ho fatta pure in dialetto, e francamente il nostro dialetto ci porta a delle situazioni così brillanti, a volte paradossali, ma in ogni caso sempre divertenti, umoristiche, ma comunque con dei significati straordinari di vita, di socialità parlando, che ovviamente, guarda, io ho scritto pure delle commedie in siciliano che qualcuna fortunatamente è stata messa anche in scena e è stata portata anche in giro. Ma ho scritto e scrivo anche per il teatro in lingua, ci mancherebbe. Perfetto. Senti, tu ti avevo chiesto se hai preparato qualcosa per noi. Vogliamo sentire qualcosina di Michele Sarrica, Tu mi inviti a nostro, io come potrei rinunciare? Però dico, io lo faccio perché a me piace il tuo stile, come scrive e così via, e soprattutto ti volevo invitare, prima, se noi possiamo, te lo dico ufficialmente e così via, fissare comunque un piccolo appuntamento, nel senso che, in funzione anche ai tuoi impegni e così via, una volta alla settimana ci sentiamo e tu ci delizierai comunque di una tua poesia, di un tuo scritto, che può essere collegato anche al tempo, al periodo, a quello che magari ci viene in quel momento in mente. Che dice Michele? Francesco, io grazie alla tua amicizia, alla nostra vecchia amicizia, io non posso dirti di no, anche perché, ti ripeto, tu mi inviti a nozze, quindi un poeta non scrive per se stesso, certo, come dice qualcuno, io scrivo per me, perché se dovessi scrivere per me non scriverei affatto, perché io so cosa voglio dire e dove voglio andare a parare, ma io scrivo per cercare me stesso, per comunicare con gli altri, anche con una sola persona, non ha importanza, ma il poeta scrive perché ha desiderio di comunicare, di scoprirsi e di comunicare. Quindi tu mi stai invitando a fare ciò per cui io credo, a esplicitare un po' l'arte in cui credo, e io credo che sia fonte di vita, non soltanto... ma vorrei fare una brevissima parentesi, non vorrei che si confondesse comunque il termine di poeta con poesia o uomo, perché vedi, molti confondono il fatto che poeta è colui che scrive, invece questo lo rinnego, anche se io sono che scrivo, quindi mi do la zappa sui piedi. Poeta è l'uomo che non ha scritto mai una poesia può essere più poeta di chi ha scritto centinaia di libri, quindi il poeta lo vedo nell'uomo, non so se mi spiego. Sì, perché sì, la scrittura poi è un fatto, l'arte, ecco, lì subentra poi l'arte, che tu ti scopri che sai scrivere, approfondisci le tecniche, ti confronti, leggi, ma c'è l'uomo poeta che non ha niente a che fare col poeta che scrive. Ok, Michele, ci fai sentire qualcosa, poi noi ci saluteremo e ci rinnoveremo. Guarda, l'appuntamento la prossima settimana, che dici? Sì, certo, okay. Per partire con qualcosa di molto popolare, uno dei miei primi libri in dialetto siciliano, okay, che si intitola Per non lasciare cadere la luna, io ti dedico, o dedico agli amici di Ebbe Radio, questa poesia intitolata Sicilia, o anche del, poi in seguito avremo modo di vedere anche qualcosina anche in lingua, se ti fa piacere. Perfetto. Come hai detto, questa invece la voglio dedicare a tutti i siciliani veri, quelli come noi. Okay. Si intitola Sicilia. Perfetto. Sicilia, tu sei la luna china che ammattiglia, la resata che scruscenta la testa, la vuglia che arraccama la mia vita. Tu sei la mia canzuna e la mia pena, lo chiumazzo e la peta della scarpa, la cunocchia che fila le mie orna. Le vere madri sono come a tia. Aspettano le passe delle figlie, puro se ci scarpisero il cuore. Sentizzano con l'occhio delle figlie, pure se ci scoperchiano il cuore. E cercano le mani delle figlie, pure se ci sbacantano il cuore. E le figlie s'adurano sta madre, facendo ricca pure la miseria. Complimenti veramente. Grazie, ti ringrazio, spero che sia arrivata bene. No, è arrivata benissimo. Ma soprattutto che mi sia arrivato l'amore che io nutro per questa nostra isola dimenticata. Allora, io devo essere sincero, Michele. Io faccio il rappresentante come mio primo lavoro principale, viaggio tantissimo all'interno del territorio siciliano e dico sempre una cosa, la Sicilia è bella da Messina a Trapani, da Palermo a Siracusa, in qualsiasi posto ne andiamo c'è tanto bel vedere, veramente. Sì. Più tardino noi avremo in diretta anche Antonio Presti, che è un po' la Fiumara d'arte a due passi, sì, da Cefalù, certo, che gentilmente ci concederà due minuti del suo tempo. Me lo saluti allora. Ok, io ti ringrazio innanzitutto perché sei una persona squisita e rinnovo l'appuntamento la settimana prossima, stesso giorno, poi ci metteremo d'accordo benissimo, noi successivamente e poi avremo l'opportunità, se tu lo vorrai e avrai il tempo giusto per farlo, sì, io ho tutto il tempo che vuoi, quando si tratta di poesia, ti ho detto la poesia è aria, è vita, quindi voglio viverla. Ok, quando ci metteremo d'accordo magari avremo l'opportunità di andare avanti con un progetto che può essere anche una presenza qui in radio e quindi fare un qualcosa di più specifico. I tuoi scritti li possiamo trovare in libreria, li possiamo trovare in qualsiasi posto? Soprattutto su internet, okay, guarda. Perfetto. Qualche libreria così ogni tanto li dà, però sai, noi apparteniamo a quel tipo di poeti un po' clandestini, non provinciali, che hanno le pubblicazioni ma chi ce l'ha, okay, che fanno, sì, ma chi sì, lo sì, sa, sì, buh, ecco, no, purtroppo qua siamo lontani dalle grosse editorie, dai grossi network, questo purtroppo tu lo sai meglio di me queste cose, quindi noi viviamo in una piccola dimensione, ma siamo felici di viverla qui, in Sicilia. Ok, Michele, ti auguro tante belle cose. Grazie, buona Francesco. Vita e ci sentiamo la prossima settimana. Un grosso abbraccio a tutti i tuoi radioascoltatori. Grazie, ciao Michele. Un abbraccio, ciao, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. We'll be right back. Slalom. Flashback. Nobody.

curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Son come anticipatovi stamattina, già abbiamo avuto Michele Sarrica in diretta da Palermo e adesso abbiamo in diretta il nostro caro amico Antonio Presti. Ciao Antonio, come stai? Ciao, salve, come va? Tutto bene? Bene? Ok, allora tu sei un po' sfuggi alle interviste o quantomeno ti ringraziamo innanzitutto di averci concesso il tuo tempo, la tua persona, soprattutto perché dobbiamo parlare, io credo, di un argomento importante che è il librino che tu ti trovi in questo periodo lì da quelle parti. Dico bene, Antonio? Sì, noi siamo impegnati a Catania per questo impegno civile sul Librino, una periferia di fronte all'aeroporto Fontana Rossa. Mm-hmm. Sono circa 100.000 persone, 10.000 bambini, ecco, un valore di resistenza sociale che trova attraverso l'arte una possibilità, ecco, di pensare al futuro. Noi da più di 10 anni abbiamo realizzato un'opera bellissima, La Porta della Bellezza, un grande bassorilievo in terracotta installato sul muro della strada di Librino, e quest'opera è stata condivisa con 2.000 mamme e 2.000 bambini. E adesso stiamo realizzando un grande museo della fotografia con un grande maestro a livello internazionale del National Geographic che si chiama Reza Zagati. Okay. E con Reza stiamo facendo un archivio socio-antropologico di oltre 30.000 persone. Mm-hmm. E queste immagini di tutti gli abitanti saranno proiettate sulle facciate dei palazzi in modo tale da restituire quel senso e valore di bellezza che gli abitanti di una periferia a volte non pensano, perché sono trattati sempre con il valore del recupero del disagio sociale. Ecco, questo è un modo, ecco, di restituire alla gente proprio di quella periferia la dignità di esistere anche attraverso un processo maieutico, personale, di bellezza. Quindi io, quando tu ti guardi una bella immagine e affermi io sono bello, ecco, affermando io sono bello riacquisti il diritto alla cittadinanza. Questo è un po' il grande progetto artistico da una parte, perché sarà uno dei più grandi musei al mondo dell'immagine, della fotografia, e un nome come Reza, una grande proprio uno star internazionale della fotografia. Ecco, e dall'altra parte la condivisione con 30.000 persone del quartiere, penso che sia una giusta politica per affermare, soprattutto in questo momento di buio e anche di progetto di futuro, ecco, quel senso del futuro che si può riacquisire sempre con il pensiero e con la conoscenza. Sì, perché solitamente di Librino si parla di aspetti negativi, invece in questo modo state stupendo, fate, diciamo, stupore sotto questo aspetto. Come tu scrivi in questo opuscolo che ho preso in questi giorni all'interno dell'albergo, con lo stupore si inizia, anche con lo stupore si termina. Dico bene, Antonio? Sì, in questo momento siamo una società contemporanea che non vogliamo più stupirci, non vogliamo più provare emozioni, non progettiamo più il sogno della vita. E il sogno della vita nasce quando gli uomini scelgono sempre il cuore. Se il cuore non batte per quel senso di futuro e del sogno, ecco, noi uomini, ecco, proviamo quel senso di smarrimento e anche di negazione del futuro, come stiamo facendo in questo momento. Ecco, in questo mi fa piacere, ecco, cogliere l'occasione, ecco, anche di questa possibilità di comunicare, ecco, che in questo momento ognuno di noi dobbiamo risvegliare questa coscienza, dobbiamo ritornare a essere di esempio, dobbiamo ricodificare il valore dell'essere, che non è il consumo, che non sono i soldi, che non è la globalizzazione. Ecco, c'è una dittatura del consumismo che ci vuole tutti schiavi, sudditi, indebitati e sottomessi al consumo. Ci vuole una ribellione di coscienza. Questo devono farlo assolutamente per necessità tutti quegli uomini che ancora credono, ecco, che per esistere non bisogna essere consumatori, ma per esistere bisogna avere, sì, il denaro giusto ci vuole, ma ci vuole anche la dignità, i valori, l'onestà, la legalità, la conoscenza. Mancando tutto, mix questo, di cose importanti, che... futuro. Giusto, bravo. Senti, un'altra cosa, io poi ti lascio perché sicuramente tu sei abbastanza importante. Io mi impegnato. Io mi sono incuriosito molto alle tue opere, soprattutto per la piramide. Noi, sì, attraversando l'autostrada collegata all'uscita dalla galleria che da Castel di Tusa, se non vado errato, arriva verso Santo Stefano, si vede questa piramide che ha dimostrato dal 38esimo parallelo. Dico bene, Antonio? Sì, questa è l'ultima opera della Fiumara d'Arte, questo grande parco di scultura che io ho donato al mio territorio da più di 30 anni. Mm-hmm. È un valore di resistenza. E questa grande piramide che io ho installato in cima alla montagna del comune di Monte d'Affermo, proprio sul 38esimo parallelo, è una piramide che sta nascendo e nel suo rinascere lei diventa la cima di una cima. E chiunque passa, ecco, guardando quest'opera, deve avere sempre quella tensione di alzare lo sguardo verso l'alto. Ecco, è un messaggio importante che una piramide in una Sicilia contemporanea sceglie sempre la via della trascendenza, la via sempre di guardare da un'altra via, da un'altra posizione. E questo è il messaggio che voglio lasciare ai giovani e ai ragazzi, e per questo motivo dentro questa piramide alta 30 metri, opera di uno dei più grandi scultori internazionali, Mauro Staccioli, ecco, dentro la piramide si può accedere soltanto una volta l'anno, al 21 giugno, al solstizio d'estate, perché noi facciamo un grande evento che si chiama il Rito della Luce. Evento partecipano tutti i bambini del territorio e tutti i grandi poeti per scegliere in quel giorno di solstizio d'estate sempre la possibilità di essere luce e consegnare luce. Questo è un rito di cultura, di pensiero che voglio lasciare alle nuove generazioni, per credere sempre di alzare lo sguardo verso l'alto e di credere sempre nel valore della conoscenza e della cultura come valore di essere. Mi sono emozionato, devo essere sincero, Antonio, dalle tue parole che sono state abbastanza profonde. Credo che come me anche tutti i radioascoltatori di CRM si sono emozionati. Io ti ringrazio, Antonio, della tua gentilezza e della tua disponibilità a rilasciarci comunque questi segni di esperienza e soprattutto questi segni di grande volontà nel volere dare un segnale a questa nuova, a questa società che per alcuni aspetti è buona, per altri aspetti è meno buona, ma ognuno di noi deve fare la sua parte. Dico bene, Antonio? Sì, dobbiamo essere quell'esempio di essere uomini e non bestie. Ok, Antonio, io ti ringrazio, spero di averti nuovamente in un prossimo futuro ospite qui all'interno del mio programma. Grazie a voi, vi aspetto sia al Librino qui a Catania, okay, che a Susa alla Fiumara d'Arte. Ok, io spero qualche giorno di questi di incontrarci direttamente, mangiare un boccone insieme, ma soprattutto per dialogare ed approfondire ancora di più la nostra conoscenza. Ti ringrazio, Antonio, e grazie di tutto. A voi, buon lavoro. Ciao, buon lavoro. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Slalom. Flashback. Thinking of the fear.

avevano dato la notizia della gravidanza, la bella coppia della bella danzatrice dell'Opera di Parigi, la nostra Abbagnato, con il un po' grosso Balzaretti, anche se sembra un vichingo, però è lui. Ora si sono visti a Milano facendo acquisti per la bimba che arriverà a gennaio, la piccola Giulia. Che questa mia canzone arrivi a te. Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà. La canterò con poca voce, sussurrando te. E arriverà prima che tu ti addormenterai. E se mi sognerai, dal cielo cadrò. E se domanderai, da qui risponderò. E se tristezza e vuoto avrai, da qui cancellerò. Ci mettiamo un bel giocatore e questa è la figlia del proprietario della società. Io penso che i giochi sono fatti. Abbiamo sentito Biagio Antonacci. Slalom. Flashback. She had another quality. tra notizie curiose, idee e tanta musica. È già mattino e fuori piove, ti sento respirare, sei qui vicino a me. Mi volto piano e il tuo profumo riempie il mio cuscino di cose che vorrei. Arriva comunque da Londra, da Liverpool, quindi dal Regno Unito. Figuratevi che un ospedale, il Borough Green Hospital, è entrato nella bufera per un annuncio di una ricerca di personale, che fino a qui non c'è nulla di preoccupante, di accattivante, ma la cosa strana è che hanno lasciato un appunto dove diceva le solite stupidaggini, critiche sulle pari opportunità. Peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene, e ora sono qui che mi guardo crescere la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati quasi eterni, quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato via per niente, che ho buttato via per niente. Sai, ti dirò come mai, gira ancora questa.

sorriso spegne i tormenti, le domande a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. Allora, amici carissimi all'ascolto, abbiamo sentito anche Tiziano Ferri questa quest'oggi con questo pezzo che si intitola La differenza tra me e te. Io è giunto il momento di salutarci ringraziandovi dell'ascolto che avete dato a questa trasmissione. Noi ci risentiremo venerdì mattina dalle 9.30 alle 13, se il buon Dio lo vorrà sicuramente, e vi lascio con la pubblicità e poi con le varie trasmissioni che si susseguiranno tra Day by Day, Rock Revolution, vabbè, On the Road, poi abbiamo Talk Talk qua e là, insomma di programmi ce n'è tanti, di compagnia ve ne facciamo tanto. Io vi auguro una buona giornata, una buona vita e ci sentiamo venerdì mattina, stessa radio. Amici vicini e lontani, ovunque voi siate, buongiorno, sigla! In diretta su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Eccoci qui anche per oggi, 19 ottobre 2011. La Chiesa Cattolica festeggia San Paolo. Auguri a tutti coloro che si chiamano Paolo, ma auguri anche a tutti coloro che oggi compiono qualcosa, un anniversario, una data importante, un compleanno. Iniziamo oggi con un flashback, loro sono gli AA, che pensate un po', nel lontano 1985, di qua e di là dell'Atlantico, erano in cima alle classifiche di tutto il mondo. Allora, salutiamo la nostra cara amica che va via la nostra brava e anche bella Daniela Zaga. Continuiamo con la musica, non prima di ricordarvi i nostri numeri telefonici, che sono 0921 92 32 92 335 56 37 251. Chiamate per le vostre dediche e richieste. Telefonate, gente, telefonate, era così che dicevano un paio di anni fa le conduttrici di quiz televisivi, radiofonici e così via. Vi ricordo il nostro sito, che è www.crmhappyradio.it, all'interno del quale potete interagire con noi tramite la pagina Facebook, e quindi automaticamente fare anche da lì anche le vostre richieste, le vostre dediche. Sono successe veramente tante cose il 19 di ottobre, pensate un po', nel 2011 la Cassazione assolve Silvio Berlusconi, nel 1987 crolla Wall Street della borsa americana, nello 79 il Presidente della Repubblica Sandro Pertini interviene per sbloccare la sentenza degli uomini a radar, e nel 73 Elvis e la Presley si divorziano. Oh, Salutiamo Antonella che ci ha richiesto Emily Sandé con questo Heaven. Quindi ritornando a quello che stavamo dicendo prima per quanto riguarda quello che è successo negli anni trascorsi, il 19 ottobre del 1973 Elvis Presley con Priscilla divorziano dal loro matrimonio che è durato, pensate, 6 anni. È nata una bambina, Lisa Maria. Nel 1933 il comitato organizzativo di Berlino inserisce la pallavolo anche tra le discipline della prossima Olimpiade che si terranno nel 1936. Continuiamo con la musica. I can't win, I can't rain, I will never win this game without you, without you. Quest'oggi nascevano tanti nomi illustri del mondo dello spettacolo come Tiberio Timperio nel 64. Invece nel 1952 nasceva Veronica Castro, attrice anche della famosissima Anche ricchi piangono. Poi c'era il codino qui siciliano che diceva: figuriamoci i poveri con che pianti che faranno. Poi è nato Peter Tosh, cantante di musica reggae, Jolly Carter, Robert Penn. So I keep living, cause it feels right, and it's so nice, and I do it all again this time. It's forever, it gets better, and I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. Let me go, I'm alive, yes you know, never stop, give me more, more. is one. Let's make a beautiful world. Take my hand, it's alright, 'cause tonight we can fly. So we keep living, 'cause it feels right, and it's so nice. And I'll do it all again this time. It's forever, it gets better. And I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. So just turn it up, let me go. I'm alive, yes you know. Never stop, give me more, more, more. 'Cause I like how it feels. Oh yeah, I like how it feels. You know I like how it feels. Oh yeah, I like how it feels. Would y'all consider the best? I consider mediocre, yeah. I want my bank accounts like Carter Slims or at least the Mini Oprah. Maybe just close your eyes and imagine any part in the world I've been there. I'm like global warming, they think I just started heating things up. But I've been here, I time travel through time zones. Give me some of my vodka and it's on. Enrique Iglesias in translation, Enrique Church's confession on. Dale mamita, dímelo todo. Adelante tu hombre, yo me hago el bobo. So no te preocupes, baby, for real. Because you gon' like how it feels. 'Cause I like how it feels. Avranno veramente da combattere sia Alfonso Signorini che Alessia Marcuzzi, che il 24 di ottobre ripartirà il Grande Fratello, che sarà in concomitanza con la trasmissione di Fiorello, presente su Rai 1 invece su Canale 5. Quindi l'occhio del Grande Fratello continuerà praticamente imperterrito dopo tanti anni ad guardare praticamente all'interno di questa grande casa. È un programma che tutto sommato il format va bene. Adesso consigli commerciali, poi riprenderemo con una canzone firmata Augereau, interpretata in maniera eccelsa da Augereau, ma è una canzone che è stata cantata da Elton John e si intitola per l'appunto Your Song. Consigli commerciali, ci risentiamo dopo. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. I hope you don't mind that I put you're in the world, yes, girl. Off the moors, but a few verses, and over, well, it got me quite hoarse. Oh, but the sun's been real kind while I wrote down a song. You see, it's for people like you, yeah, well, to keep it turned on. Get in, but these things I do. Well, you see, girl, I've forgotten if they're green or they're blue. Well, anyway, you know the thing is, honey, what I really mean, girl, is that only you's are the sweetest eyes I believe I'll ever see. Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio.